si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi è una cupa giornata, sembra di essere tornati in inverno, soltanto il terzo giorno di primavera, e quindi io oggi voglio che voi parliate delle vostre paure. La mia paura è quella di dover dipendere dagli altri, perché così come è composta la società, ognuno pensa per sé. Non ho più nessuna fiducia a nessun livello. Forse sbaglierò, speriamo di sì. Io ne ho una vagonata di paure. Ho paura che i miei figli muoiano prima di me, ho paura che muoia mio padre, ho paura che muoia mia madre, ho paura degli spazi enormi, ho paura degli spazi piccoli, la claustrofobia, l'arachnofobia. Ho paura della claustrofobia dentro la tomba, ho paura del freddo della pelle dopo la morte. Se volete vado avanti anche 2 giorni, eppure vivo ogni giorno, vivo bene anche. Chi si offre per essere di conforto a questa nostra spaventata ascoltatrice? Questo è un po' il senso della giornata di oggi. Noi vogliamo parlare delle nostre paure perché parlandone ce le liberiamo, ma vogliamo soltanto capire che le nostre paure sono di due tipi. Esistono quelle generalizzate, collettive, quelle proclamate dai giornali e dai mezzi di informazione di massa, e quelle individuali, anzi quelle locali, quelle regionali, ma quelle anche strapaesane. Avete visto le immagini drammatiche che arrivano dall'India? Tremano GM, Chrysler e Ford. Crolla Tokyo, tutti negativi i mercati europei. Permane l'allerta per il rischio di allagamenti ed esondazioni di fiumi. La città è stata proprio colpita al cuore da una serie di attentati. L'allarme di Ossina si estende anche ai bovini. Il bilancio che si fa fino ad ora è assolutamente drammatico. Ci sarebbero un centinaio di morti e centinaia, forse 900 feriti. Non vuole essere questa un'istigazione alla scarnificazione gonadica individuale, ma vuole soltanto essere una sorta di liberazione. 800240024. Parlate delle vostre paure locali. Dico questo perché recentemente c'è stata l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'ANCI, che ha commissionato una ricerca, un istituto di ricerca, e poi ve ne parleremo nel dettaglio, per definire quali sono le paure degli italiani. Hanno preso in esame 11 grandi aree metropolitane e hanno visto che le paure generali, quelle che possiamo classificare in alcuni filoni ben precisi, sono distribuite in maniera diseguale a seconda delle aree geografiche. Per vedere quanto questa ricerca affondi poi le sue radici in un senso percepito anche dal pubblico della radio, 800-24, a seconda di dove voi abitiate. Qual è tra le paure che vi elencherò per grossi filoni quella che più sentite alle vostre latitudini? State giù! Non muoverti! Non fare una mossa! Tieni le mani in alto! Tieni le mani in alto! Le chi ha? Il ginocchio! Fai il ginocchio! Sta giù! Ora girati! Girati! Le mani dietro! Dietro! State giù! Ho detto giù, stupida figlia di... Giù, giù, giù! Le chiavi! Le chiavi! Allora, state giù! Non vogliamo fare male a nessuno! Siamo qui per il denaro della banca, non per il vostro. Il vostro è assicurato dal governo federale. Non ci rimetterete un soldo. Pensate alle vostre famiglie, non rischiate la vita. Non cercate di fare gli eroi. Adesso sedetevi tutti sul pavimento con le mani dietro alla testa. Se qualcuno si sente male o ha problemi di cuore può andare ad appoggiarsi al muro. Dammi la chiave. Quale chiave? Mettetevi giù! Paura, paura, dovete avere paura, paura. Paura oscena e dura. Paura, paura, dovete avere paura, paura. Paura oscura. Uscite la mattina, ma sulla casa vicina o in cima all'edificio, di fronte al vostro ufficio, c'è un tale che vi guarda, vi osserva, vi scruta e vi analizza. Poi decide e vi sceglie, indifferente, in mezzo ad altra gente. E poi preme il grilletto e voi morite, senza sapere né perché né come. Paura, paura. Riccardo Alemann, che ormai ha preso il posto di Mauro Petrarca, che era il nostro cantore, che componeva all'istante musiche, canzoni e ballate legate al tema del giorno, ci sottolinea quelli che sono i motivi principali delle paure. Uno, questo tratto da un film con De Niro e Al Pacino, una rapina in banca, la paura di trovarsi coinvolti in un episodio criminoso, eclatante, quelli che lasciano i morti a terra. 800 24 0024, è questa la vostra paura? In alcune parti d'Italia questo è il motivo principale di paura, in altri luoghi d'Italia il motivo è un altro. Vedi che pezzo ne fregna! Andati che sì, no! No, ma io! Allora andavorti, abbona! Abbona! Amore, ancora so! E ora che sa scomando! Mo siamo stronzi noi, dai, ma che ti ha presa, Ci? Oh, Aci, ma che sei scema? Proprio oggi che ho vinto ti metti a fare sti pezzi, io non ti capisco. 3-2 ho vinto, sa? E quando vinci perché vinci, e quando perdi perché perdi. Aci, ma stavamo a scherzare, dai, su, amore. Paura, paura, dovete avere paura, paura. Paura oscena e dura, paura, paura. Altra paura è quella della violenza fisica, della violenza sessuale. Improvvisamente, in un'epoca in cui pensavamo che la civilizzazione ci avesse perlomeno allontanato da episodi improvvisi di tentativi di aggressione in luoghi che fisiologicamente non hanno le caratteristiche di luoghi a rischio, è peraltro vero, e ce lo confermano le statistiche, che la maggior parte delle violenze fisiche e sessuali si consumano in seno alle famiglie, questo lo sappiamo, ma di quello però ci spaventa ciò che noi non abbiamo sotto controllo. Ammesso e non concesso che noi siamo soggetti attivi, passivi e consenzienti osservatori di una violenza in famiglia, questo fa parte comunque di un detestabile humus nel quale siamo nati, nel quale cresciamo, nulla di improvviso, una situazione terrificante da cui però comunque si può in ogni maniera dare una, non dico una giustificazione, ma un senso di convivenza quotidiana. La paura improvvisa è quello che è accaduto a una ragazza al quartiere Parioli di Roma nella giornata di ieri l'altro, un quartiere considerato alto, bene, privo di quelle situazioni a rischio, che si è trovata aggredita nell'androne di casa, ha cominciato a urlare, nessuno è intervenuto, se non ci fosse stato il padre sarebbe stato uno dei tanti esempi che oggi costellano la nostra capitale di violenza fisica. Un'altra lavagna Vetria ad Acilia, sempre in Lazio, è stata spogliata e violentata. È cronaca di oggi la confessione degli stupratori della Caffarella, quindi lo stupro fisico, la violenza sessuale, una paura che sembra percorrere i paesi in certi momenti, nelle epoche di occupazione, di passaggio di truppe nemiche, in momenti in cui non esiste più la legge. Sembra impossibile che tornando a casa si rischi una serata qualsiasi come tante, passata con gli amici, anche la violenza sessuale. E questa è la vostra paura? In alcune aree del nostro paese questa è la paura principale. 800 24 0024. Chi è? I ladri. Andiamo su, l'allarme è staccato. Ammazza, è bella casa che è questa. Speriamo bene. Da Gaia, tu va della porta. Noi ci facciamo la gente via, va, va. Oh, qui stiamo proprio a soffio zero, eh. Tutta roba pazza, fumo nell'occhi, scaccarseria. Sti pariolini del cavolo. La trippa. Qui abbiamo preso una doppata. Ad appare. A chi te l'ha detto che qui c'era da via bene? Quello che c'ha dato st'informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200.000 lire, siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare. Almeno via Versole e mi facevo qualche cabina. Stipide una mignotta, se portano tutti in Svizzera, se portano. Ma come si fa a lavorare? Dovevamo andare in Svizzera pure noi. Ma io me domando e dico che ce lo metteranno a fare l'allarme. È inutile che te incazzi, da pre. Fai due fatiche. Azzaga, lasciagli un ricordino. Non mi scappa. E mo ma faccio io sta cagata. Paura, paura, dovete avere paura, paura. Paura oscena e dura, paura, paura. Altra paura è quella che degli sconosciuti, ladri, intrusi, entrino a casa nostra, cominciano a mettere le mani in quella che è la nostra intimità familiare, domestica, che lascino segni inequivocabili del loro passaggio, dello sberleffo a quello che noi abbiamo messo assieme attraverso fatiche, sacrifici, magari anche quotidiane privazioni. Altra paura è quella di avere ladri in casa. Questa fa parte delle vostre paure fisiologicamente in alcune aree metropolitane del nostro paese. Questa è la paura principale. Ripeto ancora il numero 800240024. Cominciamo a localizzare geograficamente le paure degli italiani. Riccardo da Parma, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei fisiologicamente, dalle sue parti, quale tipo di paura sente come prevalente? Ma guardi, io abito nella civilissima Parma. Parma è una città che sicuramente ha una tradizione di grande civiltà. E adesso io sono spaventato dalla... un attimo che abbasso la radio. Sono spaventato sicuramente dall'indifferenza che io vedo in molti strati sociali, ma soprattutto a partire dai più piccoli, perché io sono un insegnante, insegno nella scuola media, quindi io insegno matematica, quindi non è che io abbia un accesso privilegiato al cuore dei ragazzi, però sicuramente ho una visione abbastanza rapida di come cambiano i tempi, e io vedo che l'indifferenza è la cosa assolutamente che mi terrorizza, perché noi siamo nati, almeno io sono nato, ho 53 anni, sono nato in un momento in cui assolutamente la solidarietà era quasi un dovere. Adesso è diventato un lusso, secondo me, soprattutto in questa città, questa civilissima Parma, che purtroppo è balzata agli onori della cronaca anche per episodi non troppo edificanti. Sì, come ogni provincia italiana i suoi. Parma rimane più nell'orecchio, perché Parmalat viene subito l'associazione, però diciamo che è il destino di ogni città, di ogni provincia, poi essere ricordata alle cronache per episodi non certo di specchiata trasparenza nelle costumanze cittadine. Però voglio dire, questa indifferenza la vede veramente così specifica della sua area cittadina, o perlomeno è quello che hanno sempre detto gli adulti rispetto alle generazioni più giovani, che sono diversi, indifferenti, superficiali? Io ho la sua stessa età e onestamente non ho questi ricordi così vivi di solidarietà che filtrava da ogni poro ai tempi in cui io andavo a scuola e facevo il liceo. No, sicuramente no, io sto parlando della mia formazione, cioè della mia formazione e dei posti dove io ho vissuto. Ovviamente ognuno di noi ha un vissuto personale che lo porta ad avere un ricordo più o meno edificante della propria vita. Io adesso sto vedendo un'involuzione della nostra civiltà, perlomeno questa è la mia opinione, chiaramente. Questa è la sua paura, vabbè, è ben chiara, ben definita, quindi senz'altro la registriamo. Sentiamo Nicola da Milano. A Milano, buongiorno Nicola. Sì, buongiorno. La sua paura locale, fisiologica e geografica? Allora, vabbè, diciamo che la mia paura non è, diciamo, geografica, ma è, come dicevo prima al vostro operatore, a me mi spaventa, mi fa paura la violenza che potrebbe essere fatta ai minori, ai bambini soprattutto, da persone in cui si ripone della fiducia, che è quella la cosa più spaventosa che ci può essere. E, insomma, questo qua, in sostanza voglio dire che siccome oggi come oggi le famiglie sono come sono abbastanza limitate, no? Pochi figli, insomma... Quindi ci dovrebbe essere però più attenzione, visto che ne hanno pochi. Siccome ce ne sono pochi, possono sorgere questo tipo di paura. Magari una volta le famiglie erano più numerose, dal più grande al più piccolo dei figli, insomma, c'era un certo, diciamo... Quindi la paura di quello che possa accadere ai nostri rari, preziosi ed invidiati figli. Molto chiaro, Bruna. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua paura? Io ho paura del poliziotto di quartiere. Beh, male non fare, paura non avere. No, non è questo il discorso, perché vede, hanno fatto qui dove abito io, in un paese del Vicentino, anche una conferenza per spiegare che non sono aumentate le situazioni pericolose, anzi. Allora perché ci mettono il poliziotto di quartiere? Per farci paura? Per farci venire paura ancora di più? Scusa, ma lei che fastidio dà al poliziotto di quartiere? Dovrebbe essere rassicurata. Che paura le fa un poliziotto di quartiere? Ma io non ho paura di niente. Ma allora, se non ho paura, devo aver paura perché mi mettono il poliziotto di quartiere. Ma lei non ha paura perché probabilmente ha meno paura perché c'è un poliziotto di quartiere che tutela la sua... Non ho mai avuto paura. Ma adesso che ci mettono il poliziotto di quartiere non so come, anche perché l'esperienza mia personale mi dice che è meglio non aver bisogno di un poliziotto, di un vigile urbano, di un carabiniere, perché tanto ti devi arrangiare. Sì. Se non fanno guai, quantomeno non fanno niente. Sì, ma che problema le procura, vorrei capire. Solo per capire, perché è antitetico rispetto a quello che normalmente ci si aspetta, visto che ho sott'occhio i dati. In molte parti d'Italia temono per la microcriminalità, per la poca sicurezza nelle strade, quindi dovrebbero sentirsi confortati da un poliziotto di quartiere. No, non esiste microcriminalità da far paura a qualsiasi. Non esiste. Quindi io, che prima vivevo normalmente con le porte aperte, e poi comunque la paura è una cosa razionale. Io irrazionalmente ho paura del poliziotto di quartiere, non le lo so dire perché. Vabbè, lo provi a invitare a prendere un caffè a casa sua, magari le passa la paura. Signora, buona giornata e andiamo avanti con quelle che potrebbero essere le paure generalizzate degli italiani, prima di entrare nello specifico di come sono geograficamente distribuite nel nostro paese. Io, ingegnere Eugenio Ronconi, ricco da far schifo, sto chiedendo la carità. Ah! Ma che cosa fai, matto? Io no, ma te sì. Ce l'hai il permesso per l'elemosina? Come? Per chiedere la carità ci vuole il permesso? Sì, signore. E a chi devo chiederlo? Al sindaco? A me no, al sindaco. Questa zona è mia. Sempione, Monte Rosa, Piazza Castello è tutta roba mia, non sapevi o no? La batte da solo o l'accompagna la mamma? Vuoi pirlotto? Ma tu sei nato stronzo o lo fai? Altra paura è quella dell'improvvisa povertà, dell'improvviso calo del nostro tenore di vita, del nostro potere d'acquisto che si scema tra le nostre dita, di non essere più socialmente quello che noi pensavamo di essere, con il baluardo e la compattezza del nostro status, della nostra possibilità di avere, possedere, dimostrare, muoversi, distribuire. Non essere più come una volta il terrore della povertà. Beh, abbiamo più o meno diviso in grossi blocchi quelle che sono le paure generalizzate, paura delle rapine, della criminalità, paura dei furti in casa, paura della violenza fisica, paura della perdita di potere d'acquisto, quindi della povertà. Vediamo come secondo SVG sono distribuite queste paure in percentuale nelle province italiane. Le percentuali delle nostre paure secondo l'ultima indagine della SWG. Il 32% degli italiani teme la precarietà lavorativa ed economica. Il 30% degli italiani teme la microcriminalità, furti, scippi. Il 18% degli italiani teme una caduta del tenore di vita. Il 12% degli italiani teme la solitudine. Le paure degli italiani in rapporto alle singole città. A Bologna e a Roma si temono di più le molestie e le violenze sessuali. A Torino, Milano e Genova si ha paura prevalentemente dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di stupefacenti. A Napoli, Palermo e Bari prevale la paura della grande e della piccola criminalità. Abbiamo ospite il dottor Enzo Risso dall'SVG o SWG, come meglio vi chiamate voi in famiglia, non so bene. Dottor Risso, buongiorno. Buongiorno, ci chiamiamo SVG. SVG, perfetto, mi sembrava più semplice. Lei ieri è già stato nostro ospite al GR Extra Large, quindi oggi le abbiamo dato un maggiore possibilità di saggiare i dati che voi avete elaborato. Una prima definizione di come sono distribuite le grandi paure a seconda dei vari comuni italiani. Voi avete analizzato 11 aree metropolitane, mi pare. Ci può dare qualche dato più preciso? Quali sono stati i luoghi della vostra indagine? Noi abbiamo indagato Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, Venezia. In realtà abbiamo fatto anche un'indagine su tutti anche i piccoli comuni, perché l'indagine era divisa in due parti, cioè l'insicurezza sulle grandi città e l'insicurezza vissuta nei piccoli centri urbani, tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti. 800240024, stiamo parlando delle paure degli italiani, ma nella maniera più specifica stiamo parlando di come sono distribuite a seconda delle varie aree geografiche. E ne parlavamo con Enzo Risso. Enzo Risso, direttore della SVG. Ci siamo interrotti, ma se possiamo, dottor Risso, vediamo di cominciare a mappare le paure degli italiani a seconda delle varie latitudini, come almeno risulta dalla vostra ricerca. Sì, noi abbiamo fatto un'indagine che, avendo messo a confronto le varie città, consente di verificare non solo quali sono le paure, ma anche quali sono i luoghi dove si sviluppa la paura. Un esempio tipico è, per esempio, che in tutta Italia i luoghi dove maggiormente c'è la paura da parte dei cittadini è quando, per esempio, si gira da solo di notte, oppure nei luoghi isolati e illuminati, oppure in generale ai campi rom. Però, per esempio, non so, i cittadini che viaggiano sul trasporto pubblico di Palermo e di Napoli hanno paura di essere derubati o aggrediti. Ci sono i cittadini sempre di Napoli, ma anche di Roma, per esempio, che hanno paura quando bussano alla porta di casa. Ecco, questi sono solo alcuni esempi, insomma, di come si vive la paura nel quotidiano. Ad esempio, ho sotto mano una rappresentazione grafica della vostra ricerca, vedo Torino, Milano e Genova, l'immigrazione clandestina e lo spaccio, Roma e Bologna invece molestie e violenza sessuale. Diciamo che queste due grosse paure che noi abbiamo esemplificato all'inizio della trasmissione, però sono distribuite in percentuale diversa a seconda delle aree geografiche. Esatto. Come ad esempio a Genova una cosa che viene vissuta molto negativamente sono le bande giovanili. Il tema della tossicodipendenza, dell'alcolismo colpisce per esempio molto anche Firenze, che è una delle città dove c'è un buon livello di sicurezza in realtà. E così come il tema dei furti in casa, quello è la paura maggiore che hanno a Venezia. Sembra singolare, Venezia è una città molto particolare anche come proprio conformazione urbanistica, e la maggior paura è i furti in casa a Venezia. Esatto, poi ci sono anche la paura della tossicodipendenza, di essere aggrediti, però diciamo Venezia per esempio è la città più sicura delle città metropolitane ed è un caso che siano proprio il tema del furto in casa quello che colpisce di più. È difficile fare uno scippo a Venezia. Certo, difficile scappare poi per esatto, le strade. No, voglio dire, mentre è più facile subire una truffa oppure derubare nell'appartamento. Beh, è chiaro, ci sono delle città che fisiologicamente in alcune regioni particolarmente a rischio, la criminalità organizzata è il maggior motivo di paura, ma sorprende molte volte ad esempio l'insorgere in città che apparentemente non sembrano toccate da questo problema, ad esempio dalla paura della violenza fisica, della violenza sessuale. Io ho citato al quartiere Parioli di Roma un tentativo di aggressione. È difficile poi stabilire quanto sia l'effetto amplificatore della notizia che viene ripetuta, rimessa in circolazione, centrata, assemblata dagli organi di informazione, quanto realmente poi corrisponda a un livello di rischio aumentato. Dai vostri numeri c'è una corrispondenza poi fra una reale coincidenza fra episodi criminosi e la paura di subirli? C'è una reale incidenza di quanto i media esaltano un certo tipo di reato e la paura di subirlo. Cioè l'80% delle persone intervistate ci dice che la loro paura aumenta nel leggere, nel vedere sui telegiornali il complesso dei reati che vengono realizzati in Italia. Cioè i media hanno un effetto di cassa di amplificazione, cioè avviene un reato a Canicattì, questo diventa parte del quadro nazionale, non è più come un tempo che rimaneva magari ancorato solo a quel singolo ambiente. Ecco, noi abbiamo fatto una serie di raccolta di dati presi dai giornali, dalla stampa, dagli indicatori. Ieri la stampa di Torino ha fatto un'inchiesta proprio su questo, citando anche la vostra ricerca. Nonostante che l'Italia sia uno dei paesi più sicuri in Europa, almeno in rapporto al numero degli abitanti rispetto ai delitti commessi, esistono delle cifre che comunque in sé rappresentano un motivo di paura. 71.762 colpi in banca. Tra i paesi europei, l'Italia detiene il primato dei colpi in banca. Va specificato che nel 2008 il numero è calato di oltre il 20% rispetto all'anno precedente e, sempre più magro, anche il bottino. 20.700 euro a rapina. $4.637 è il numero di violenze sessuali commesse nel 2008, con un calo di circa l'8% rispetto al 2007. Per quanto riguarda gli autori delle violenze sessuali, il 60% sono italiani, il resto stranieri. 663 omicidi nell'ultimo anno di rilevamento. Da questo punto di vista, l'Italia è uno dei paesi più sicuri d'Europa in rapporto al numero di abitanti. I microcrimini subiti più frequentemente in Italia sono atti di vandalismo, furti di cellulari, macchine fotografiche, automobili e biciclette. Ecco, se poi andiamo a vedere il dato, analizzare il dato nello specifico, in realtà i motivi di paura dovrebbero scemare, dovrebbero essere minori, però in realtà l'amplificazione e soprattutto la frequenza seriale delle notizie di questi episodi, che molte volte li raggruppano, li mettono in relazione tra di loro, danno come l'impressione che accadano più episodi rispetto a quelli che statisticamente sono sempre accaduti, aumentano probabilmente il motivo di stress. Nel nord Italia prevalgono rispetto alle altre zone i furti, soprattutto di dispositivi elettronici e di bici, lo scasso di auto, i vandalismi, ma anche le violenze in famiglia e le molestie. Al sud e nelle isole sono invece più diffusi il borseggio e soprattutto lo scippo, che è subito in una percentuale tripla rispetto al resto della nazione. Luciana da Genova, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, è da tanto che volevo chiamare, finalmente ce l'ho fatta. Approfitti di questa succosa occasione. Appunto, approfitto, guardi, sperando che lei mi possa essere d'aiuto in un qualche modo. Io non posso aiutare nemmeno me stesso, posso farla parlare. Diciamo, lei e la sua radio è una cosa importante. La radio forse, io no, prego. Senta Nicoletti, io ho paura, veramente il terrore, della impotenza delle istituzioni. E le spiego. Noi qui davanti, io abito a Genova, alla Foce, abbiamo avuto moto e macchine bruciate. Le fiamme arrivavano a un'altezza del terzo piano. Abbiamo dei barboni tra un caseggiato e l'altro, è coperto, c'è un fornice e ci sono, ha cominciato con un barbone, le dico che fa di tutto, escrementi di tutti i tipi. Adesso non entriamo nei particolari, fa quello che fa qualsiasi clochard che vive per la strada. Va bene quello che fa qualsiasi clochard, però se me lo metto a fare io, lei, voglio vedere che fine fa. No, figuriamoci, ecco. Mica dico che è giusto avercelo sotto casa. Poi, ora da uno, sono diventati sette, cioè lei nel marciapiede, dal marciapiede, lei non ci può passare. Il negozio che è sotto è disperato perché dice non so che cosa fare, perché davanti non si ferma più nessuno. Ho chiamato il consiglio di quartiere, ho chiamato il responsabile, ho chiamato i vigili, insomma qui nessuno può fare niente. Tra l'altro la nostra sindaca ha fatto un'ordinanza in cui vieta l'accattonaggio e vieta che ci siano barboni che possano molestare. Domenica ce n'erano forse. Comunque mi sembra di sintetizzare, signora, che sennò mi parla solo di Genova e dobbiamo dare un occhio a tutta. Genova, io sto parlando di Genova, sì, perché sì. Le altre parti le sento. No, lei in parte conferma quello che ci aveva detto il dottor Risso, se non sbaglio, dottor Risso. In Genova la paura della microcriminalità e quindi le persone che vivono ai margini rispetto a quella che si chiama società civile. Dottor Risso. Sì, sì, sicuramente. A Genova è risponde al suo campione elevato. La signora Luciana. Sì, assolutamente elevato. Oltretutto io sono di Genova di origine, conosco bene la Foce e quindi capisco quello che sono le cose che emergono in quella realtà, insomma. Poi Genova viene vissuto molto il problema dei clochard, ma anche degli immigrati e dei luoghi poco illuminati. Fenomeno che esiste in tutta Italia, Roma ne è piena, nottetempo popolano i monumenti. Per varie mattine ho parlato del Pantheon, dove i clochard dormono accanto alle spoglie regali, quindi questa cosa mi faceva abbastanza impressione. Però probabilmente per certe strutture proprio architettoniche della città, in certe città il problema viene più sentito, sono più visibili, sono più presenti, probabilmente anche più fastidiosi. Stiamo cercando di definire le percentuali di paura diffuse e generalizzate in Italia, ma specificamente in singoli comuni a seconda di situazioni locali e particolari. Le paure assumono una consistenza differente. 800240024 è il numero per raccontare la vostra paura locale. Sentiamo Gianluca da Piacenza. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Niente, praticamente io so che tutte queste paure di cui si parla sono paure che vengono dall'esterno, quindi create dall'esterno. La mia paura maggiore è quella comunque sì, dei ladri, dell'intrusione nella mia casa, seppure io non abbia niente di particolare in casa, comunque sia è già capitato 3 volte un mio vicino proprio di appartamento di avere i ladri. Alla fine ha dovuto mettere delle inferriate, cioè spendere, non so, dei 5-6 mila euro in più rispetto aver comprato la casa, oppure per potersi mettere in sicurezza, oppure tutte le volte che esco di casa guardo se c'è qualcuno in giro, eppure è un paesino piccolissimo, saremo in 300 abitanti. Ma ci sono episodi ricorrenti che giustificano questa sua paura o è semplicemente una sua individuale paura che entrino ladri in casa? Ma all'inizio, cioè per me non c'era questa paura, ho sempre abitato in campagna, però questo mio vicino ha avuto 3 episodi ripetuti, ho visto nel suo appartamento dopo questi episodi, l'ultima volta addirittura hanno calpestato anche nel mio giardino, era appena nevicato, è capitato di vedere appunto, allora senti proprio che sono a un passo dall'entrare in casa tua e dal disturbare la tua quiete, quindi ti devi barricare oppure avere queste fobie che nascono pian piano. Io non sono una persona ansiosa oppure che ha paura dell'esterno, però capita così, oppure vai a fare un giro a Piacenza in città e anche se dicono che la tolleranza comunque la si capisce pian piano, la si studia e tutto e ti viene dentro, però alla fine è una cosa che senti dentro che hai un po' paura degli altri, no? ti viene questa paura che qualcuno ti possa andare a disturbare la tua quiete oppure venire addirittura in casa tua mentre tu... Lei li identifica in qualche maniera particolare questi altri, li definisce, li riconosce, guarda per strada, sono gli stranieri ad esempio, adesso non voglio imboccarle le risposte, ma dice guarda vedo le persone oppure degli altri. Gli altri sono quelli diversi da noi che ci fanno più paura? Penso che sia caduto probabilmente, non lo sento più. Sì. Allora Walter, buongiorno Walter. Sono Walter da Roma. Ho detto alla sua operatrice ecco, una cosa che forse fino ad ora non è stata detta da nessuno e mi sembra anche strano, cioè la paura della malattia, cioè la mancanza di salute delle persone care soprattutto, perché purtroppo ho potuto verificare in tanti anni, io sono abbastanza giovane, ho 45 anni, però che le persone dispariscono sotto gli occhi da un momento all'altro. Facevo il caso con la vostra operatrice di mio cognato, proprio 2 anni fa è stato operato purtroppo per un tumore al cervello e oggi già non c'è più, e quindi era anche un modo elegante e carino per ricordarlo, una persona normalissima che purtroppo da un giorno all'altro si è trovata con una malattia incredibile ed è sparito dentro un letto per un anno, e quindi come i miei cari amici, ho circa 45 anni. Probabilmente esiste senz'altro, mi ricordo una trasmissione precedente che abbiamo fatto sulle paure, allora c'era l'amministratore delegato di un'altra grande azienda che si occupa appunto di analisi dei comportamenti, era il dottor Avis, che ci disse che la prima paura degli italiani, al di là comunque delle sollecitazioni che vengono dall'esterno, è quella non tanto di perdere la propria vita, la propria salute, ma di perdere un proprio caro, ma perché probabilmente viviamo in una società in cui sono diminuiti di gran lunga gli strumenti di elaborazione di un dolore simile. Una volta si elaborava attraverso alcune naturali istituzioni come la famiglia, come il gruppo, il clan, le persone ci stanno vicino, per molti anche la rassegnazione che dà una fede religiosa era uno strumento di elaborazione. Oggi viviamo in un mondo molto segnato l'egoismo, è stata la prima telefonata in fondo c'è stata fatta dell'insegnante che ha detto che vedeva una grande indifferenza. Uno dei risultati di questa indifferenza è che manchino gli strumenti di elaborazione di un naturale, ahimè, normale mancanza di una persona cara, di un congiunto. Giorgio da Pisa, buongiorno Giorgio. Buongiorno Nicoletti, mi sente? Sì, certo, benissimo. Allora, la mia grande paura di quel pensiero politico che ci vuole tutti globalizzati, società multietniche per forza, solo per un interesse di mercato. senza guardare poi... Sì, ma la racconti più vicina alla sua esperienza, perché così è teorico il discorso. Cos'è che le fa paura? Ma siccome noi abbiamo tanti delinquenti per conto nostro, grazie alla globalizzazione e alla società multietnica, si importano anche dall'estero. Sì, ma non è la società, la globalizzazione non è un signore che un giorno decide così, sono cose che accadono. È chiaro che possono esistere sistemi di regolazione di questi flussi, su questo non glielo nego. Ma tanto il pensiero politico dominante è quello di non mettere paletti per niente, oppure fare finta di metterli, tutto lì. E perché questo secondo lei? Per questioni di mercato, economiche, grandi industrie che fanno accordi con i vari stati concorrenti o amici, capito? Come ad esempio quando abbiamo aperto il mercato comune alla Romania e tutti sapevano, cioè una grandissima parte dell'opinione pubblica sapeva che dalla Romania sarebbe arrivato una grandissima massa di delinquenti, difatti sono arrivati, ma non solo dalla Romania, anche da altri paesi ex Unione Sovietica, capito? È così. Questa è la causa, questa è la causa che... Questa è la causa. Da mettere in conto, noi abbiamo accontentato gli industriali per andare a aprire le fabbriche all'estero, in cambio ci hanno mandato tanti bei delinquenti e tante persone per bene. Ma questo però in cosa si concretizza? Ce l'avevamo già per conto Sì, ho capito, nostro. Mi faccia parlare però, scusi. La domanda è specifica. In due parole, questa lei ha definito un suo quadro, per cui queste sono le cause per cui c'è stato questo flusso di stranieri, non certo in linea con i comportamenti corretti e civili che ci aspetteremmo da un essere umano. Questo è un dato innegabile. Però in cosa si concretizza, in una parola, la paura data da questo? Non tanto, ormai visto che ci sono, di averci vicino persone straniere che possono avere comportamenti violenti nei nostri confronti? No, senta, più che altro la paura principale a me è il pensiero politico, che mi fa tanta paura. Va bene, è il pensiero politico, abbiamo capito, è chiaro. Doriano da Pistoia, poi chiudiamo. Sì, buongiorno. No, ecco, io volevo testimoniare una cosa, ad esempio, la mia amica è terrorizzata e non esce la sera da sola dopo questi episodi. Però poi vorrei anche allargare un po' il discorso. Io, ad esempio, che ho un chiosco, sono in pensione, sono aperto un chiosco, vendo panini, e in cima alla montagna, in roulotte, io vivo tranquillo, senza paura. Però io chiedo anche questo, per cercare anche di andare contro, perché ci sono tanta incoerenza, no? Ad esempio, le persone, cioè i ladri vanno a rubare, portano via televisori a plasma o altre cose. Se noi cittadini, tutti, che si parla di giustizia, si cominciasse a non comprare più nulla, nero, intanto si darebbe anche una bella risposta, diciamo, ai ladri. Vabbè, la sola è una proposta, fa sorridere, però è manichea, nel senso divide il problema. Non compriamo più nulla, siamo poveri, così saremo talmente poveri che nessuno avrà più nulla da rubarci. Concludiamo, Enzo Risso, solo una battuta, visto che siamo in conclusione, rispetto alle ultime due telefonate. Ma guardi, sicuramente il tema degli altri è cogente, perché insomma... In tutte le città che abbiamo monitorato, quando si passa vicino agli immigrati scatta un meccanismo di paura. Questo è un dato su cui occorre riflettere. C'è anche da dire che per esempio l'86% degli italiani pensa che la maggioranza dei rumeni siano brave persone. Ecco, questa mi sembra la conclusione migliore, che in fondo rende anche giustizia a quella che è la realtà, del direttore dell'SVG Enzo Risso. Grazie a tutti quelli che hanno chiamato, hanno avuto il coraggio di confessare le loro paure. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.